Grazie dell'invito. Io vorrei spendere i miei 4 minuti chiedendovi di aggiungere alle cose che avete già detto, insomma, e di includere nel campo delle vostre riflessioni anche 2 altri punti di vista. Il primo, voi forse sapete che il mio no alle missioni armate e schierate negli scenari di guerra nel mondo dell'Italia deriva da un particolare punto di vista che è pacifista e non violento. Io sono partito da questa considerazione. Io penso che vi siano questioni, alcune questioni come appunto la pace e la guerra, ma potrebbe essere anche sola la tortura e la pena di morte, non lo so, che devono uscire dal repertorio ordinario delle decisioni politiche, dei valori, insomma, e dei beni che sono indisponibili alla mediazione e al dibattito politico. Quando io quindi ho chiesto che su questa vicenda, insomma, cioè decidere di mandare qualcuno ad ammazzare o a farsi ammazzare, ci fosse una decisione libera. Ho chiesto che fosse stata lasciata libertà di scelta a ogni singolo parlamentare. Forse è un discorso sicuramente ingenuo, anche se vi prego di tenere conto che, per esempio, l'SPD, che certamente non è un partito privo di, diciamo, tradizioni governative, ha fatto esattamente così. Sui tornado in Afghanistan ha lasciato libertà di voto ai singoli parlamentari. Però mi pareva una proposta, insomma, e un discorso che potesse appunto liberare da un disciplinamento, non solo soggettivo, ma proprio di disarticolazione della politica, delle scelte politiche istituzionali, e provare a mettere assieme quelle 2 etiche, quella doppiezza dell'etica che viene, che non è una cosa, dopo Tony potrebbe spiegarci molto meglio, a me potrebbe spiegarmi molto meglio, insomma, che non è una cosa recente, è una cosa molto, molto antica, insomma, della separazione dell'etica della responsabilità dall'etica della convinzione, no? Per cui chi fa politica deve abbandonare la propria coscienza non so dove, in un confessionale forse, o se ci crede, o allo specchio la mattina quando si lava, per entrare in un'altra sfera dove questa coerenza non gli è più chiesta, anzi gli è chiesta un'altra coerenza. E lui lo diceva, compagno del Valle Susa lo diceva ridendo, ma è proprio così, cioè l'uomo che è diviso dal ministro, l'etica che è divisa dalla politica, la vita che è divisa dalla statualità. È esattamente così. E allora chiedere una cosa molto ingenua, insomma, perché non possiamo, se voi siete così convinti che mandare delle truppe in Afghanistan sia fare del bene e combattere il male, che problemi avete nel lasciare a ognuno di noi, la libertà di scegliere questa evidente cosa? Ma io questo punto di vista vi chiedo di considerarlo, e possibilmente, io ci spero molto, insomma, includerlo nelle vostre campi di riflessione, perché secondo me noi dobbiamo non solo essere contro la guerra, ma essere anche per la pace, per dire una banalità, sapendo che la pace non è solamente assenza di guerra guerreggiata, la pace è appunto un sistema planetario di giustizia, di equità, di libertà, di condivisione, di reciprocità. E allora, per essere contro la guerra, dobbiamo fare anche, Gandhi lo chiamava un programma costruttivo, cioè dobbiamo anche mettere in campo una alternativa convincente alla guerra. E quindi dobbiamo incominciare a dire che se qualcuno ha calcolato che sono 500 miliardi di dollari finora spesi in Afghanistan, venissero, per quindi 24 milioni di abitanti che c'è nell'Afghanistan, venissero impegnati diversamente, forse ci sarebbe più possibilità di successo, no? E allora dobbiamo incominciare a dire come impegnare diversamente queste risorse, come poter passare appunto da una strada trasformare i conflitti da un sistema distruttivo ad un sistema invece costruttivo, capace di produrre pace, benessere, quindi un percorso di riconciliazione, un percorso, un'iniziativa diplomatica dal basso, eccetera, eccetera. Questo dobbiamo mettere in campo, in un quadro, secondo me, generale, che deve essere quello appunto dell'incontro di civiltà, insomma, e del riconoscimento reciproco con l'Islam e con quelli che ci stanno dipingendo come nemici. Ecco, questa la prima riflessione. Il secondo punto di vista che vi vorrei dire, aggiungendomi a quanto avete già detto, e io sono d'accordissimo con quanto ha detto Salvatore, con quanto avete già detto, cioè che non si tratta di, quando si dice autonomia, non si tratta di dire vabbè pari sono, no? No, si tratta, per delle forze politiche antagoniste, si tratta di riporre la priorità, di rimettere al centro dell'agire politico, quello che chiamiamo i movimenti, il conflitto, l'antagonismo, le rivendicazioni che partono da qui. Ma ecco, la cosa che vi volevo dire, e quindi, diciamo, partendo dal riconoscimento appunto dell'assoluta autonomia di questi movimenti, che non devono mai farsi condizionare dai vincoli che il sistema politico pone, sia, diciamo, nel male, ma voglio dire anche nel bene, non lo so come dire, cioè deve essere autonomia vera. Però ecco, la riflessione che vi volevo chiedere, chiudo, è che questa autonomia per me non può significare indifferenza, non può significare separazione, perché sarebbe, io la vedo come una sorta di rinuncia ad influire, rinuncia a condizionare, e quindi, partendo da questa autonomia, ma una interlocuzione va trovata, secondo me, fin tanto che non riusciremo ad abbattere lo Stato e a trovare altre forme di auto-organizzazione, ma finché ci sono, finché queste funzionano e finché queste condizionano, noi dobbiamo, non possiamo lasciargli il terreno libero, ecco. Per cui questa era l'altra semplicissima aggiunta che volevo fare, e vi ringrazio.